Senta, ma questa cosa che lei ha fatto questo record, tra l'altro visibile su un sito specializzato. No, non è un record. Il suo record. Sì, se va a vedere che sul sito e39.de c'è gente che è andata avanti anche più forte di me e anche dove sarebbe proibito. Lei è andato a 316 km. Questo è il tachimetro, poi la velocità reale non lo conosco. Però lei dice, insomma, lì è consentito, in un tratto autostradale in Germania dove non ci sono limiti, dove non c'era nessuno, dove era di notte. Non c'era nessuno, si vede dal filmato che non c'era nessuno, la visibilità era ottima, la strada dritta, quindi penso di aver fatto una cosa che, vabbè, non tutti fanno, non tutti piace, non tutti condividono. Non tutti magari hanno anche la macchina per poterlo fare, insomma. Vabbè, insomma, una macchina che è costosa, ma non costosissima, insomma, qualcuno dice, il deputato che guadagnavo bene anche prima di fare il deputato, insomma, sì, me la sarei comprata lo stesso. Forse non avrei avuto l'opportunità di andare in Germania che è attaccata a Strasburgo, ecco, l'unico vantaggio di essere deputato vicino. L'unico vantaggio, cioè, di essere l'unico vivo. Vantaggio in questi termini. Ah, in questo termine, sì. Se no, uno deve farsi 300 km di Svizzera per arrivare in Germania. C'è qualcuno che lo fa proprio per togliersi il gusto di andare in giro senza pigliare multe. Ma lei il limite in Italia come lo vede? Lo alzerebbe? Ma io farei come in Germania, dove ci sono addirittura limiti variabili. A seconda del traffico, delle condizioni della strada, eccetera, i pannelli non sono fissi. Sono pannelli luminosi, ad esempio tra Karlsruhe e Stoccarda, a seconda delle condizioni si va dal limite di 80 addirittura a nessun limite. Io penso che questa è la soluzione migliore, ma penso di essere minoritario, quindi democraticamente accetto la volontà di chi vuole mettere i limiti. Il limite è 130, che lei rispetta sempre in Italia. Io rispetto anche quelli di 30, non solo quelli di 130, naturalmente poi dietro suonano, lampeggiano e insultano, magari quegli stessi che mi criticano perché quando non c'è il limite vado come mi pare e piace.